Quando il mio amore tornerà nel cielo, una stella splenderà. Se spenta da il mio sogno è svanito, da quando il mio amore fuggì da me. Una perla nascerà. Son tutte le lacrime che ha pianto la stella nel vedere, solo e triste il mio cuore. Quando il mio amore tornerà da me, nell'aria un violino suonerà. Scenderà nel mio cuore ed il tempo si fermerà.